Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. L'annuncio di pochi giorni fa, il GAR, la rete nazionale che collega in fibra ottica le principali istituzioni di ricerca del paese, è riuscito a mettere a punto un'innovazione tecnologica grazie alla quale ha potuto aumentare di 5 volte la velocità di trasporto in rete dei dati, implementando una tecnica chiamata delle onde aliene, che consente, nel momento in cui si vuole upgradare, diciamo, un'infrastruttura di questo genere, notevoli risparmi economici e di tempo. Ne parliamo con Massimo Carboni, Chief Technology Officer del GAR. Buonasera Carboni, benvenuto. Buonasera a lei. Allora, senta, intanto onde aliene, spieghiamo che cosa sono. Allora, le onde aliene, prendiamo ad esempio la sintonizzazione radio, sui sistemi radio, quello che accade è che è possibile avere diversi canali di comunicazione corrispondenti alle radio. Alle varie frequenze, perfetto. La nostra. E analogamente nella fibra ottica è possibile veicolare segnali di tipo elettromagnetico, similari a quelli radio, multipli, tali da consentire la trasmissione di informazioni, quali per esempio quella internet o in generale sistemi di comunicazione dati. Su tanti canali. Diciamo che mentre nella radio appunto ci sono onde radio di frequenze diverse, quelle su cui ci sintonizziamo, quando si parla di fibre ottiche ci sono invece degli impulsi laser di colori diversi e bisogna tra virgolette sintonizzarsi sul colore giusto, no? Per ricevere le informazioni. Analogamente per quello che riguarda le fibre ottiche, un po' come è accaduto tempo addietro con la DSL, dove era possibile utilizzare il doppino telefonico per le comunicazioni audio, è stato possibile mettere all'interno molte più informazioni per unità di tempo, grazie al fatto di poter mescolare diversi segnali anche con caratteristiche molto diverse. Ed è quello che avete fatto voi, no? In pratica. Esattamente. Noi quello che abbiamo fatto è abbiamo messo insieme tecnologie trasmissive differenti, non previste inizialmente, in particolare 7 anni fa, quando abbiamo progettato la rete che sta funzionando e che fornisce i servizi alla comunità accademica di ricerca italiana. E oggi abbiamo potuto, sfruttando chiaramente le innovazioni tecnologiche che sono comunque disponibili, andare a mettere sugli stessi sistemi che sono in esercizio da 6 anni, soluzioni in grado di andare 5 volte più veloci. Ecco, provo a dirlo in un altro modo, diciamo che questi sistemi di trasmissione in fibra ottica sono concepiti chiavi in mano, incluso, diciamo, quanti colori, quante sono 80, le portanti? Allora, tecnicamente sono 80 colori, okay, quindi 80 frequenze. Perfetto. È come avere una radio che permette di trasmettere soltanto 80 stazioni contro invece le moltissime di più che magari possono essere disponibili. Ecco, oggi... perfetto, perché normalmente appunto questi sistemi nascono così con un numero limitato. Voi quello che siete riusciti a fare in pratica è aggiungere nuove portanti, no? Quindi nuove frequenze, alla stessa infrastruttura, senza bisogno di modificare, addirittura senza bisogno di spegnere l'infrastruttura. Siete riusciti a farlo mentre l'infrastruttura era in funzione. È corretto? Allora, noi abbiamo sperimentato la soluzione all'interno dei nostri sistemi di produzione e abbiamo potuto metterla in esercizio durante il corso di questo anno su oltre 3.000 chilometri di infrastruttura. Quindi sì, l'abbiamo fatto e l'abbiamo fatto attraverso uno studio interno che è stato possibile grazie all'expertise che il GAR ha all'interno. Quali sono i vantaggi di questo approccio nell'ipotesi appunto di voler potenziare un'infrastruttura in fibra ottica rispetto a quello che è l'approccio tradizionale? Il vantaggio principale riguarda la necessità di non dover discontinuare, quindi di non dover spegnere le infrastrutture in funzione e di estendere di almeno 3 anni, in realtà contiamo di poterlo fare per ancora più anni, le soluzioni che avevamo pensato oltre 7 anni fa. E anche l'hardware che è stato utilizzato nel frattempo. Connesso ai costi relativi. Per quello che riguarda l'aspetto però peculiare, quello che noi vediamo è che ad oggi c'è un cattivo utilizzo delle infrastrutture ottiche, in quanto vengono tipicamente rese disponibili con soluzioni che poi hanno una vita molto lunga, ma che in sé sono inefficienti rispetto all'opportunità che invece la fibra ottica rende disponibile, cioè quella di poter andare a velocità sempre maggiori senza dover coinvolgere nuovi investimenti. Cioè lei sta dicendo che rispetto alla fibra ottica anche già posata oggi, già presente come infrastruttura, in realtà la quantità di roba che ci riusciamo a far circolare sopra è abbastanza limitata rispetto a quello che si potrebbe fare. La fibra ottica che oggi è usata male. La fibra ottica che oggi arriva nelle case già oggi consentirebbe di veicolare servizi equivalenti a quelli che noi stiamo utilizzando sulle infrastrutture di lunga distanza. La fibra ottica è un sistema di vetro che trasporta luce e la stessa fibra ottica è in grado di trasportare il 100 megabit della connessione casalinga piuttosto che i 100 terabit tra qualche anno. Certo. Disponibili, e questo senza cambiare il mezzo fisico. Ovviamente in alcuni casi c'è qualche cambiamento, ma davvero di poco conto, e sicuramente non c'è alcuna differenza tra la fibra ottica di casa e quella che usiamo noi sulla lunga distanza. Le fibre ottiche oramai ce ne sono tantissime in rete, molte sono sottoutilizzate e sempre di più quello che si fa è scavare nella speranza di poter offrire nuovi servizi. Invece basterebbe semplicemente utilizzare le fibre in un modo più innovativo. Ecco, senta, ma perché lei ritiene che questo modello, che questo approccio tecnologico possa anche favorire il tema della concorrenza rispetto alla rete? Il motivo principale è legato alla possibilità da parte di piccoli soggetti che non hanno una copertura territoriale paragonabile a quella dei grandi operatori di mettersi insieme e condividere le infrastrutture ottiche al fine di fornire servizi confrontabili dal punto di vista anche della capacità con quello dei principali operatori di telecomunicazione nazionale, senza dover acquisire un'infrastruttura di lunga distanza, ma semplicemente condividendola. Senta, dopo questo lavoro sulle onde aliene, quali saranno insomma le prossime frontiere quali vi dedicherete lì al GAR? Le onde aliene sono il primo elemento di questo modello di rete evolutiva che consentirà di fatto di adattarsi alle necessità degli utenti attraverso una maggiore intelligenza dell'infrastruttura. L'infrastruttura dovrà adattarsi essa stessa all'utente e non viceversa. Oggi abbiamo un modello molto rigido fatto di strati che non comunicano con l'utente finale e che spesso rappresentano un vantaggio per l'operatore di telecomunicazioni, ma non per l'utente. Ecco, nel modello di erogazione dei servizi. Ecco, mi fa un esempio. Un caso abbastanza emblematico può essere quello di un utente come me in questo momento che, potendo disporre di un'infrastruttura di questo tipo, possa avere lei qui a farmi l'intervista invece che al telefono, e attraverso l'infrastruttura che a quel punto si potrà adattare noi possiamo fare trasmissione dati verso un broadcasting. Tutto il resto del mondo. Lei dice, immaginiamo un domani potremo avere una rete internet tale per cui io posso venire a casa sua e lei può richiedere per il tempo dell'intervista, diciamo un'ora, no? Una connettività ad ampissima banda, magari appunto per fare una trasmissione televisiva, che ne so. Poi dopo torna a richiedere la banda normale. Esattamente, questo è chiaramente un mattone del modello, non è l'unica cosa, poiché i servizi in realtà sono sempre in costruzione. Certo. E ogni giorno scopriamo nuove applicazioni e i servizi saranno quelli che dovranno essere il driver del nuovo modello di rete oggi e in futuro. Quindi GAR sta lavorando in quest'ottica con la propria comunità di riferimento al fine di arrivare a modelli di questo genere. Lo stiamo facendo anche a livello internazionale. GAR è parte di un network più ampio che è europeo e sul quale noi intendiamo andare ad applicare gli stessi paradigmi. Grazie allora Massimo Carboni. Arrivederci, buona serata a tutti. È tutto, a lunedì.